questo è il podcast nel garage. E loro sono i Calabrese, dal Posse Music Network, Midnight Spook Show. Leggenda dell'horror punk contemporaneo, per così dire, se possiamo chiamarlo contemporaneo, perché era il genere che hanno introdotto i mitici Misfits un bel po' di anni fa, e i Calabrese vanno avanti su questa linea e sono ormai nella scena un gruppo abbastanza importante, conosciuto. Dal Posse Music Network e abbiamo ascoltato Midnight Spook Show, e ci sono anche altri pezzi che potete andarvi a guardare un attimo, ad ascoltare riguardo a questa band. Allora, questa è la puntata numero 4 della nuova serie di questo inutile podcast, che si ritrova in una posizione abbastanza scomoda, del tipo che ultimamente non trovo il tempo di organizzarmi bene con le puntate e vado un po' random, butto un po' fuori quello che capita, e spero almeno che la musica che passa su questo podcast possa essere di vostro gradimento, magari possa darvi degli spunti per degli acquisti o dei download che poi potete andare un attimo a farvi per i fatti vostri. Pare anche che la situazione politica mondiale sia un po' cambiata negli ultimi giorni, nelle ultime settimane. La guerra in Israele, in Palestina, veramente possiamo dire che la guerra in Palestina condotta da Israele è finita, pare sia finita, e c'è chi canta vittoria da entrambe le parti. C'è il portavoce di Hamas, che è quello che assomiglia, avete notato che assomiglia a George Clooney? È la copia di George Clooney arabo, pazzesco. Se non avesse sposato la politica e la militanza, avrebbe potuto fare la star di Hollywood. E lui canta vittoria. A me pare che lì ci sia rimasto poco per cantare vittoria. Comunque, vabbè. E Israele considera compiuta la missione di indebolimento di questi tunnel che la gente che si usava per il come si dice in italiano, smuggling. Minchia, non mi viene. Vabbè, insomma, comunque avete capito. Si usavano questi tunnel per contrabbandare, eccola, per contrabbandare le i viveri, insomma, sapete che con l'embargo, con tutte le, con queste frontiere chiuse, la gente si poteva rifornire soltanto da questi tunnel e che sono stati bombardati. Io adesso non, sicuramente mi rendo conto che in questi tunnel poi ci sarà stata una speculazione pazzesca, però mi pare pure che erano anche l'unica fonte di approvvigionamento dei mercati popolari nella striscia di Gaza. Quindi adesso, vabbè, riguardo alla situazione umanitaria, dalle immagini che vedo in televisione pare che nessuno se ne freghi un cazzo di vedere se la gente ha da mangiare, dove va a dormire. Questa gente che da un giorno all'altro magari aveva anche un posto dove stare si è ritrovata in una situazione di profugo. E comunque da entrambe le parti si canta vittoria. A me quello che, vabbè, a parte Israele, la follia guerra fondaia di questo stato, non sto neanche a commentarla. Quello che mi lascia un po' in dubbio sono questo Hamas, George Clooney. Non capisco se George Clooney si sta facendo un pacco di soldi in questa situazione, perché a quanto pare il loro budget annuale rasenta i 50 milioni di dollari tra donazioni che arrivano da altri paesi, tra Arabia Saudita e Iran. Quindi io adesso, con un budget di 50 milioni di dollari all'anno, mi piacerebbe vedere le fatture di questo partito. George Clooney pare sempre abbastanza pulitino quando esce in televisione, anche durante i bombardamenti si pareva molto, molto tranquillo, e se non altro intento a scegliere le parole di propaganda. Mi chiedo anche da dove trasmetta questo signore. Comunque, chi ci smena sempre e comunque sono i poveri disgraziati che pagano tutte le varie azioni politico, militari, economiche. I poveri disgraziati sono quelli che pagano sempre e comunque, e non solo nella striscia di Gaza, ma in generale. E poi, comunque, l'importante è essere simpatici e carini. Poi il resto, chi se ne fotte. Ora, finiamola con questa mia vena polemica, perché poi potrebbe esserci anche qualcuno che si lamenta. Meno male che questo è il mio file MP3 e ci faccio quel cazzo che mi pare. Ora vi lascio un secondo gruppo abbastanza famoso. Oggi è la puntata dei famosi. E sono gli All For Nothing. Sono un gruppo fondato nel 2002, un gruppo olandese di musica hardcore. E per chi segue il genere sono abbastanza conosciuti, insomma. Vi lascio a un pezzo anche lui che viene dal Potsdam Music Network. Si chiama Shape Tomorrow. Change. A DJ. Che figata. Gli All For Nothing dal PMN, Potsdam Music Network, con Shape Tomorrow. Un minuto e cinquanta abbastanza killer, che vi ho regalato in questa puntata numero 4, episodio, chiamatelo come volete. C'è anche un micro progettino in ballo. Intanto la mia base, a proposito, la base di un artista chiamato Sirk, che rilascia questa elettronica minimalista su Jamendo, che mi piace abbastanza. Continua ad andare in rotazione, io però non sono riuscito ancora a capire come farlo andare. Anzi, veramente l'ho capito. Anzi, no, l'ho capito, però mi dimentico ogni volta di settare la base in modo che giri. Io intanto ogni tanto mi devo cliccare sulla traccia con la base. Insomma, dicevo, c'era un progettino che avevo in mente di invitare, anzi veramente un progetto che già dovrebbe essere in ballo, e il problema è che il sottoscritto non ha la possibilità di organizzarsi. Cioè, io, se ti dico, non sono in grado di dirti ci troviamo a quell'ora per fare la cosa, perché la mia vita è improgrammabile tra lavoro e vita privata, è tutta una specie di casino. Comunque, a chi fosse interessato a venire come ospite nel podcast, nel garage, chi fosse interessato a registrare la sua voce durante un episodio, ben venga, siete tutti invitati, sia che siate ascoltatori o podcasters, quello che volete. Se siete ascoltatori, ovviamente vi serve un microfono, anche di quelli che comprate al supermercato da 5 euro, non so quanto possa costare, comunque uno che costa poco è più che sufficiente, ovviamente una connessione ADSL, e vi dovete scaricare Skype, che trovate, come tutti ben sanno, sia per Mac che per Linux che per Windows, ve lo scaricate. E niente, ci diamo un appuntamento. Ovviamente siete voi che dovete adattarvi al sottoscritto. Io vi dirò quando e come dovete connettere. Se non avete la possibilità di adattarvi a quello che io vi dico, allora è meglio che non vi proponiate, perché alla fine non si riesce a fare, perché io non... come avevo già detto, non riesco a programmarmi niente. Quindi mi riservo il diritto di imporvi le ore, i tempi per fare questa cosa. Io dal mio cercherò in tutti i modi di rendere la vostra permanenza in questo garage il più piacevole possibile. Vi do anche il diritto di scegliervi una canzone, anche che non... Che vi piace, non una che sia inerente, che vada sulla linea del podcast nel garage, quella che volete, qualsiasi pezzo. Magari evitate dei pezzi ambient da 15 minuti, una canzone normale, insomma, che possiamo suonare e magari commentare insieme, se volete, su questo... Se volete, ho detto, se volete, quante volte l'ho detto, non lo so, cerco quasi sto quasi... Adesso vi comincerò a pregarvi di venire. Ho già un candidato il quale è caduto nella trappola della disorganizzazione. Per ora non vi svelo chi è un podcaster, naturalmente, come si poteva immaginare, però mi piacerebbe anche che qualche ascoltatore non timido si faccia avanti. Ovviamente potete dire le parolacce, potete insultare, potete utilizzare la piattaforma del podcast del garage anche per i vostri annunci personali, anche potete magari insultare qualcuno col quale non andate d'accordo. Insomma, il podcast del garage tanto viene marcato senza problemi come contenuto esplicito, e andiamo, ci divertiamo, facciamo quello che vogliamo. Finiamo qua, non abbiamo altri pezzi, abbiamo già parlato per un quarto d'ora e già più che abbastanza. Vi saluto, aspetto le vostre email, i vostri commenti e boh, non lo so. Ciao a tutti.